E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Alma, in particolare ai radioascoltatori dei Colori dell'Anima, che come sapete va in onda ogni lunedì dalle 21 alle 22. Allora, cominciamo da Anna Maria. Buonasera Anna Maria. Buonasera a tutti. Senti caldo questa sera? Direi di sì. Un caldo stasera? Africano. È arrivata proprio l'Africa. Esatto. Allora, perché è arrivata l'Africa? Perché stasera, lo vuoi dire tu? Sì, stasera ho il piacere di avere qui con noi, abbiamo il piacere di avere qui con noi degli amici che io conosco personalmente da vecchia data, che hanno avuto delle esperienze africane. C'è un paese in particolare che ritornerà spesso e di cui parleremo, immagino, a lungo. E ve li presentiamo. Allora, abbiamo Loredana. Buonasera Loredana. Buonasera. Allora, è la prima volta che parli in radio? Sì, è la prima volta che parli in radio. Va bene, ma non è la prima volta che parli di Africa, visto che tu la conosci bene, giusto? Esattamente, proprio così. Va bene. Poi abbiamo Pinuccia. Buonasera. Che abbiamo avuto il piacere lo scorso anno di averla qui con noi e ci aveva fatto già tutto. Sì, e io a questo proposito mi devo scusare con Pinuccia perché quella volta ci fu un problema al computer indipendente dalla nostra volontà, per cui non abbiamo potuto mettere la trasmissione online, quindi mi auguro fortemente che questa sera funzioni tutto benissimo in modo tale che poi nei prossimi giorni ci sarà la trasmissione di questa sera sul blog e quindi la potremo riascoltare e la potranno riascoltare soprattutto i radioascoltatori. Grazie, è sempre un piacere. E poi infine abbiamo Fabrizio. Fabrizio, che anche lui ci avrà una bella storia da raccontare, un po' diversa dalla nostra, ma ci aspettiamo che ci dia delle impressioni che magari noi non ci aspettiamo. Buonasera. Buonasera. Fabrizio ha una R un po' moscia. Sì, giusto. Ma perché chi vive in Africa ha la R moscia? No, non lo so. Spesso un po' dicono che è un po' l'accento francese, poi la moscia non francese. Aiuta, però. Ho capito, ma tu quindi sei vissuto in un contesto di lingua francese? Io sono nato in Africa e ho fatto tutta la mia scuola in francese. A casa ho sempre parlato italiano con mia madre e mio padre, ma sì, il francese l'ho studiato in francese fino ai miei 18 anni in Ruanda. Ecco, va bene. Allora, sarà carino parlare anche con te di questa esperienza. Allora, Anna Maria. Allora, io come volevi cominciare? Io volevo cominciare con una cosa che forse ricorderanno in molti. Vi leggo un pezzettino, vediamo se qualcuno si ricorda di che cosa si parla. Vi leggo questa cosa. Io conosco il canto dell'Africa, della giraffa e della luna nuova africana distesa sul suo dorso, degli aratri nei campi e delle facce sudate delle raccoglitrici di caffè. Ma l'Africa conosce il mio canto? L'aria sulla pianura fremerà un colore che io ho avuto su di me e i bambini inventeranno un gioco nel quale ci sia il mio nome. O la luna piena farà un'ombra sulla ghiaia del viale che mi assomigli e le aquile sulle colline Ngong guarderanno se ci sono. Allora, non so se qualcuno l'ha ricordato, ma questo era una parte, un monologo che Karen Blixen, una scrittrice danese, di origine danese, aveva riportato sul suo romanzo. Questa scrittrice è vissuta in Kenya negli anni, non saprei dire onestamente, non me lo ricorda. Non è importante. E ha dovuto lasciare l'Africa per una serie di circostanze che poi vedremo che sono addirittura direi ripetitive, e ha scritto un romanzo che è La mia Africa. E quindi da questo prendiamo un pochino spunto e ognuno di noi magari racconta la sua Africa. Va bene, allora io proporrei intanto che cominciaste tutti a pensare ad un colore. E un colore perché? Perché questa trasmissione si chiama I colori dell'anima e ci piace quindi associare l'argomento di cui parliamo ad un colore. Ora però, poiché avete avuto delle esperienze diverse, magari ognuno di voi può avere un colore diverso. Quindi intanto vi faccio pensare a questo possibile colore. Io mando un altro brano musicale. I brani, normalmente, per chi ci ascolta sa che i brani musicali che mandiamo sono dei brani italiani, però questa sera ho scelto un CD, dove ci sono dei brani, diciamo così, delle ninne nanne, e alcuni di questi sono di paesi africani, quindi sono delle musiche che a me piacciono molto. Per esempio quella che vi farò ascoltare adesso è del Benin, non so se si pronuncia così, ma comunque è un brano che si chiama Naima. E quindi, appunto, mentre pensate al colore, che poi ci direte naturalmente insieme alle vostre storie, andiamo ad ascoltare questo brano. Magari tu, Anna Maria, ci puoi ricordare il telefono della radio? Certo, allora ci potete chiamare allo 02 345 2656. E grazie e a fra poco. Ed eccoci di nuovo in studio con I Colori dell'Anima, in compagnia di Anna Maria e Rosanna e tre ospiti questa sera, a parlare di Africa, o almeno diciamo dell'Africa che i nostri ospiti conoscono, perché appunto voi che ci siete stati mi insegnate che l'Africa è un enorme continente, non grande. È un continente, sì, enorme, grandissimo ed è vario, vasto, c'è di tutto, di più, sì. Dal nord al sud si incontrano paesaggi di tutti i tipi, tipi di terreni diversi, popolazioni diverse, animali diversi, quindi si potrebbe parlare per mesi, insomma, senza ripetere mai la stessa cosa. Ho capito. Senti, Anna Maria, cominciamo da te. Da me. Qual è il colore dell'anima per te che ti fa pensare all'Africa, ma in modo particolare non all'Africa, la tua esperienza personale africana? Il giallo, sicuramente, il giallo, l'ocra, l'arancio, i colori del sole, i colori del sole al tramonto, il calore. Gli odori non hanno ricordi, cioè si fa fatica a ricordare gli odori, ma sono una cosa che bisognerebbe riuscire a bloccarli in qualche modo, perché anche gli odori sono importanti, certo, nelle esperienze. Certo. Io ricordo quando venivo in Europa e che poi tornavo in Africa, la prima cosa che mi colpiva uscendo dall'aereo era proprio l'odore, questo odore di terra, profuma d'erba, secondo le stagioni, tra l'altro. Certo. Era la prima impressione quando si arrivava e si usciva dall'aereo e venivi investito da questi raggi di sole caldi, specialmente quando si tornava da paesi come il Belgio o dall'Italia d'inverno, quindi certo. Era abbastanza... Quindi il giallo. Il giallo, io direi il giallo, per me. Va bene. Loredana, invece? Per me è il rosso. Il rosso, quando si atterra in Ruanda, è il rosso della terra che mi colpisce, una terra rossa a ferro, è veramente è una cosa, non ho visto questo colore in nessun'altra parte del mondo, ho viaggiato, ma il rosso. Ma il rosso lo vedi perché è una terra incolta, cioè dove non c'è vegetazione, o perché malgrado la vegetazione comunque questa terra, diciamo, viene sempre fuori? Dove non è coltivata è rossa, perché da dove è coltivata è più scura, perché è una terra vulcanica, molto molto fertile. Quando la coltivazione di patate, legumi, è nera. E il rosso è la terra incolta, quando si arriva, è troppo bello questo colore. Allora, abbiamo proprio dei colori fortissimi. Tu invece, Pinuccia, quale colore pensi? Io penso al verde, perché la mia esperienza mi ha portata in tre paesi diversi, due molto sabbiosi e il Ruanda, che è stato il mio paese preferito, il verde, perché arrivando da un paese dove c'era il deserto, mi sono ritrovata con questo mare di verde, le mille colline, una flora, una cosa veramente straordinaria. E dunque il verde mi è rimasto negli occhi ed è quello che mi ha impressionato di più. E Fabrizio, per finire? Per me anche il verde. Io in Ruanda ci sono nato, ho sempre vissuto lì, il verde del mio giardino, queste piante dappertutto, io fino ai miei 10 anni giocavo sempre anche nudo nel mio giardino, il contatto con la natura è sempre stato molto forte nella mia infanzia, con questa molto lussureggiante, c'è un odore molto forte la natura in Africa, ti siedi qualche minuto nel giardino, ti pizzica anche le gambe, è diversa che la natura che c'è qua in Europa. Ed è dappertutto. Il giardino che abbiamo io e la mia famiglia in Africa è pieno di alberi, piante, fiori, uccelli, animali. A casa ne abbiamo anche tanti. Dunque, io sono cresciuto proprio con gli odori, con queste cose, fanno parte della mia infanzia e del mio sviluppo. Ma da come ne parli, insomma, hai lasciato con un po' di quasi di tristezza. Ma perché qua non essendo più in contatto con la natura come là, sì, si perde un po' i roper, come si dice in francese. I punti di riferimento. Giusto. Mm-hmm. Va bene, quindi verde, verde. Verde chiaro o verde scuro? Tutte le tonalità. Tutte del le verde. Tonalità. Sì. Io abbastanza scuro. Scuro. Questa vegetazione abbastanza scura, forte, mm-hmm, con molta energia, non so, sì, come posso spiegarlo. Sì, sì, sì. Bello. Sì, bisogna dire una cosa in particolare, che il Ruanda è un paese che la capitale soltanto è a 1600 metri di altezza, quindi a livello del mare, 1600 metri a livello del mare, quindi parliamo di un paese che non è caldissimo, non è arido e c'è una quantità d'acqua rispetto al resto dell'Africa che è impressionante. Ma è per quello che la natura è così rigogliosa, in più il terreno fertilissimo dà origine a delle piante che sono stratosferiche. Quindi, per dire che se la capitale è 1600, vuoi dire che ci sono molti altri punti che sono anche, sì, più, sì, alti, beh, di, cioè, questo? Bisogna ricordare che al confine fra Ruanda e il Congo c'è la catena dei vulcani, i famosi le montagne della luna che erano descritte da Stanley. Virunga, esatto. Ci sono dei vulcani che sono tuttora attivi, quindi insomma, uh-huh, parliamo e arrivano anche a 3000 metri. Uh-huh, uh-huh. Più alto è a 4500 metri. Ecco, mi correggono quelli che sono più giovani, che hanno memoria. È salito. È salito. È salito addirittura. Sì, l'ho fatto con mio padre. L'hai salito? Sì, l'ho scalato fino in cima, e dove ho visto tutta la catena sopra, era molto molto impressionante, molto, uh-huh, molto alto. Uh-huh. Ma sei salito su un vulcano, quindi un vulcano? Sì, è una stazione turistica, sì. Si fa, ci sono 9 vulcani e li si possono scalare. E quello che hai scalato tu come si chiama? Il Kalisimbi, il più alto. Kalisimbi, sì. Bene, vabbè, insomma, capisco che tu ti senta molto vicino alla natura, anche con questa esperienza di scalatore. Certo, tutti i weekend erano sempre esperienze, si usciva dalla capitale, che è Kigali, e si andava o al lago Muasi, o tutte queste gite, andavamo al parco, che è il parco della Kagera, il parco in Ruanda. Sì, sempre in contatto con la natura, tanto, uh-huh, là non si poteva farne a meno. Certo. E tu, Anna Maria, pensi molto alla natura del Ruanda? Sì. Sì. Ricordo quando ne parlammo l'anno scorso che dicevate anche con Pinuccia che la temperatura era quasi sempre sui 24-25 gradi, sì, quindi una temperatura ottimale. Assolutamente. Ma quindi non ti rendi conto delle stagioni che passano? Sì, ti rendi conto delle stagioni perché c'è la stagione secca e la stagione delle piogge, sì, che delimitano un pochettino le stagioni, ma certo non è come qua in Europa che dovresti avere la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno. Perché quest'anno. Effetti, ecco, non è proprio così. Là, sì, sono le due stagioni, la stagione secca e la stagione delle piogge, che comunque le piogge, quando uno parla di piogge, non è assolutamente paragonabile alla pioggia qui in Belgio, perché la stagione delle piogge, se incomincia al mattino, la pioggia arriva sempre di mattina, se incomincia la sera sempre di sera, dura quelle 2-3 orette, poi il sole rispunta e si ricomincia tutto da capo, e questa è la meraviglia, perché nonostante tutto c'è proprio la pioggia che serve solo a questa natura più che rigogliosa, e poi la vita continua con questo bel sole, la temperatura ottima, e quindi io non mi ricordo di aver mai avuto troppo caldo. Ora ci stiamo domandando freddo. Che cosa facciamo qui in Belgio. Beh, ma oggi no, però dai, con questa oggi temperatura. No, oggi siamo tutti non so più felici. Che temperatura abbiamo avuto, ma siamo arrivati a 31. Siamo arrivati a 31. Sì. Ah, ecco. Va bene, quindi è proprio la serata ideale per parlare di questo argomento. Allora, cominciamo anche a vedere un po' più da vicino, quindi, le esperienze, diciamo, personali di ciascuno di voi. Quindi, Pinuccia, hai detto che sei stata in vari stati, però sì, il tuo cuore è rimasto Ruanda. In Ruanda. Assolutamente, Kigali. Tu sei andata per motivi di lavoro? Sì, mio marito aveva firmato un contratto per il Ruanda dopo aver vissuto 7 anni in Nigeria, e quindi siamo stati in Ruanda fino a fine 89, e ho lasciato il mio cuore a Kigali, assolutamente, perché lasciando Kigali siamo partiti per la Somalia, ma è stata una piccola esperienza perché poi in Somalia è subito scattata la guerra e siamo rientrati tutti nel 90. La mia esperienza più bella è stata con il Ruanda, assolutamente. E tu, Anna Maria, anche sei stata in Ruanda? Sì, sì. Tu sei stata solo in Ruanda? Io sono stata a lungo solo in Ruanda, poi ho visto altri paesi, ma non posso fare paragoni perché non ho mai vissuto in altri paesi, quindi ho fatto visita, insomma, un po' turismo, un po'... però non posso fare nessun tipo di paragone, ecco. Mm-hmm. Comunque, fra di voi la persona che è vissuta di più in Ruanda è Loredana, giusto? Sì, sono 22 anni e conto di tornarci. Ho dei problemi familiari, sono dovuta rientrare in Europa, ma conto di tornarci. 22 anni e non volevo andarci. Io sono andata nell'87 fidanzata e non volevo andarci. E poi mi sono sposata nell'89, 22 anni. Sono andata per amore di mio marito, e adesso sono innamorata di questo paese. Infatti, quando c'è stata la guerra nel 94, che sono dovuta rientrare per forza maggiore, stavo male, non sapevo perché, non capivo. Dopo un anno solo sono ritornata, atterrando, vedendo quel rosso della terra, ho capito. Ecco perché stavo male. Il mal d'Africa esiste. E quindi, insomma, tu ti consideri, non ti consideri, sei ancora comunque, vivi lì, però sì, sei qui di passaggio. Sì, io tornerò di nuovo a fianco di mio marito, lavoriamo lì e tornerò presto. Quindi 22 anni saranno ancora di più. E ripeto che non volevo andarci, ma ho incontrato mio marito all'università e voilà. Poi è una famiglia molto, diciamo, molto ruandese, pur essendo italiani. Mio suocero ha fatto tanto per Ruanda, anche in Congo, veramente tanto. Quando c'è stata la rivoluzione dei Simba, sono stati prigionieri dal 4 agosto al 28 novembre del 64. Mia suocera faceva la pasta per tutti quanti, prigioniera faceva la pasta per tutti quanti. Mio suocero, farmacista, aiutava tutti. Infatti è stato insignito dalla croce di San Silvestro dal Papa Paolo VI e anche alla croce dei cavalieri dell'ordine della corona dal re Baudouin. Quindi come potevo non andare in Ruanda anch'io dopo questa, un suocero così? Sto scherzando, naturalmente. L'Africa è qualcosa di veramente di violento, di egoista. È un paese egoista. Uh-huh. Ti prende e non ti lascia più. Ah, ecco, in questo senso è il paese egoista. Sì. Che bella definizione. È vero. Sì, sì. Ma secondo voi c'è qualcuno invece che va in Africa, o almeno magari li avete conosciuti, e che non si trova bene, ha voglia di andare via? Sì, sicuramente. Sicuramente non tutti hanno le stesse reazioni. E diciamo che la reazione che ha avuto Loredana la prima volta che è arrivata ce le hanno diverse persone. È ovvio che è un mondo completamente diverso a cui non si è minimamente abituati. Chi è nato e cresciuto in Europa o comunque in un paese, fra virgolette, civilizzato, puntualizzo che metto fra virgolette perché ogni paese ha la sua civiltà, la sua cultura e le sue tradizioni, perciò quello che noi riteniamo civile per noi magari per altri non lo è. Quindi ripeto, che chi è abituato a un certo stile di vita, andare in un paese che è completamente e assolutamente diverso dal proprio, può essere uno shock. E non è facile abituarsi, non è facile assolutamente, perché è talmente tutto diverso, dai ritmi fisici, psicologici, a tutto. Non ci sono paragoni. Allora, continueremo ancora a parlare delle vostre esperienze. Io propongo di ascoltare un altro brano musicale. Ci ritroviamo fra pochi minuti. E vi ricordo anche che le trasmissioni, quando il computer funziona, vengono messe nel nostro blog, che è radioalma.eu/icolori dell'anima, che è tutto attaccato, quindi radioalma.eu/ i colori dell'anima, molto semplice. Allora, ci ritroviamo fra pochissimi minuti, mi raccomando, rimanete sintonizzati con i colori dell'anima su Radio Alma 101.9. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Allora, ed eccoci di nuovo in diretta, mentre sono le 21:33 minuti di questo lunedì 8 luglio. Allora, vi ricordo che I colori dell'anima è una trasmissione che va in onda in diretta, ma alle volte viene anche ritrasmessa, dipende appunto dalla disponibilità della radio. Qualche tempo fa era il venerdì alle 20, adesso non so se sia ancora questo orario, e come dicevo prima, certamente la potrete ritrovare le nostre trasmissioni dopo qualche giorno disponibili sul nostro blog radioalma.eu/icolori dell'anima. Allora, stiamo parlando di Africa, in realtà stiamo parlando molto di Ruanda, quindi di un paese particolare. Sì, ci soffermiamo un pochino di più perché tutti abbiamo avuto delle esperienze in questo paese. Credo che ad eccezione di Pinuccia, che ci può raccontare qualcos'altro, magari di qualche altro paese, noi siamo più legati al Ruanda. Sì. Per esempio, Pinuccia, ci dicevi che tu hai avuto esperienze in Nigeria. In Nigeria, la mia prima esperienza è stata la Nigeria. Dunque ho lasciato l'Italia, anch'io, giovane sposa, dunque per amore, per seguire mio marito. E mi sono ritrovata in un paesino sperso della Nigeria, vicino al deserto, dove quando proprio la temperatura era mite si parlava di 40 gradi più o meno, e dove non c'era nessunissima persona all'infuori dei nigeriani, e il primo europeo era a 150 chilometri. Dunque mio marito partiva al mattino in cantiere, ritornava a pranzo, ripartiva al pomeriggio, ritornava a cena. E io all'inizio ho avuto moltissime difficoltà ad adattarmi, però poi ho provato la tenacia, senz'altro. Poi ci siamo spostati in una grande città dove c'erano già molti più europei e abbiamo incominciato così tutta un'altra vita, molto più movimentata, un po' più agiata, nel senso che uno poteva magari anche uscire di casa, andare al mercato, andare a fare la spesa, perché per mesi non ero uscita praticamente di casa. Reclusa. Non reclusa, ma ti senti, quando non conosci le persone, l'idea di andare da sola al mercato non ti incoraggiava moltissimo, ecco, e quindi niente, ho cominciato tutte le mie esperienze, poi sono nati i miei figli, abbiamo fatto... E sono nati là, in Nigeria? Sono nati in Italia, partorivo in Italia, ma 4-5 settimane al massimo e tornavo E tornavi con i bambini? Tornavo con i bambini. Ma i bambini non avevano bisogno di vaccini? No, assolutamente. Nel senso che in Nigeria non c'era bisogno? C'era la febbre gialla, sì, in Nigeria, sì, che bisognava fare. Sinceramente adesso è talmente lontano nel tempo che non saprei dirvi se avevo dovuto direttamente prima di partire fare la febbre gialla o se poi invece l'avevo fatta sul posto. Non saprei più, ma so che i bambini sono partiti sempre piccolissimi e non ho mai avuto nessunissima difficoltà. E quindi ho fatto il nord-est, no, prima il nord-ovest, poi il nord-est, poi sono scesa nel centro a Kaduna, lì ci siamo rimasti molto più tempo. E tutte esperienze, una diversa dall'altra, tutte esperienze bellissime anche quelle, i lati negativi, i lati positivi, naturalmente come in tutte le cose. Però quando poi ho incontrato il Ruanda, chiaramente era talmente diverso che mi è piaciuto molto, molto di più. Senti, ma tu avevi una tua attività o ti dedicavi soprattutto alla famiglia, alla casa? In Nigeria mi sono sempre solo dedicata alla famiglia e alla casa, perché come in la stragrande maggioranza dei paesi musulmani le donne in generale non possono lavorare. Invece è arrivata a Kigali, dopo pochi mesi, la signora che si occupava del consolato partiva per l'Italia e il console dunque mi ha assunta. per poter lavorare in consolato. Ho fatto qualche anno e poi ho aperto una mia attività, un negozio di puericultura, una specie di 012 Benetton, anche se non era Benetton, era 012 perché non si trovava proprio granché. E quindi avevo aperto questo negozio con una signora belga, ci eravamo associati, all'hotel de Milcolin, e funzionava anche benino la cosa, questi negli anni 88-89 più o meno. Poi però mio marito, che ai tempi era il capo, come si dice, il capo cantiere per il Parlamento del Ruanda, il cantiere veniva a termine, e il signor Murri, che era associato in quel periodo con altre persone, aveva proposto a mio marito di trasferirsi a Mogadiscio per il cantiere dell'aeroporto. E mio marito ha sempre avuto nel cuore grandi, grandi progetti, e a lui interessava tanto il cemento armato, e quando sentiva parlare di cose grandiose si buttava a capofitto. E quindi mi ha detto un giorno, dice: senti, vado a Mogadiscio, vedo com'è la situazione, non, stai tranquilla, non firmo niente, torno. E quando è tornato, appena l'ho visto entrare in casa, ho saputo che saremmo partiti, perché aveva una luce negli occhi, la stessa luce di quando era rientrato con la firma del contratto di questo grande Parlamento. E quindi ho subito detto: boh, vuol dire che ripartiamo. No, non è ancora niente di definitivo, però boh, qualche giorno dopo mi dice: sì, guarda, io parto per questo grosso cantiere, tu rientri in Italia e poi mi raggiungi. E così è stato. Sono partita in settembre e sono arrivata a Mogadiscio in dicembre. E sempre con questi bambini avanti e indietro. Allora, a proposito di questi bambini, insomma, che sono nati e cresciuti, io volevo chiedere a Fabrizio, che invece è cresciuto, è nato e cresciuto in Ruanda, che però poi per gli studi si è trasferito in Belgio. Allora, raccontaci qualcosa di questa esperienza, invece, al contrario rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Che cosa ti ha colpito di più quando sei arrivato qui in Europa? Personalmente è stato molto difficile adattarmi qua. Tutte le estati di tutti gli anni sono sempre stato in Italia per 2 mesi, dunque posso anche dire che ci sono anche cresciuto, però viverci in Europa non l'avevo mai fatto. E arrivato qua tutto è cambiato in pochissimo tempo. Mi sono ritrovato da solo a gestire i miei studi, la casa mia, i soldi, era un po'... Sì, perché in Africa poi la vita è un po' diversa, si vive un po' in una bolla, nel senso. Perché in un paese in via di sviluppo così, l'educazione e l'istruzione delle persone conta molto, soprattutto se si è giovani o minorenni, dunque ero molto controllato, le mie frequentazioni, quello che facevo, i miei genitori sapevano tutto, frequentavo sempre lo stesso gruppo, non eravamo moltissimi. Io andavo alla scuola belga, è per quello che poi mi sono ritrovato in Belgio. Ecco, quindi è importante dire, ecco, che in questi paesi non sono rappresentate tutte le comunità, per cui spesso sono di maggioranza o francesi o, come nel Ruanda, maggioranza belga, per cui le scuole, l'istruzione principalmente dei paesi che sono stati all'epoca i colonizzatori dell'Africa. Quindi ecco perché in Ruanda maggiormente c'era una maggioranza belga e la scuola belga. E c'erano anche molti ruandesi nella scuola, però boh, era una scuola era belga, giustamente non era frequentata da tutti, e per quello che era un po' una bolla. E arrivando in Europa, poi la cosa che è stata un po' difficile è che subito non andavo d'accordo molto con la gente qua, perché poi i valori erano diversi. Già un italiano, quando arriva in Europa, nel nord dell'Europa, in Belgio per esempio, si trova un po', vabbè, non sempre a suo agio. Sì, certo. Arrivando qua la differenza tu eri un italiano, sei un italiano speciale. Spero. Poi posso dire che mi sono adattato, però è stato difficile. I 2 primi anni arrivi in un posto dove i valori sono diversi, senza giudicare ovviamente la popolazione di un paese, però la dignità, la, l'educazione, cioè essere educati o no, il legame che tu hai con la tua persona, come la nozione di rispetto è molto diverso, no? E io non mi sentivo bene con i belgi, diciamo subito, ma mi sarebbe potuto essere, come dire, se non anche un altro paese mi sarebbe potuto essere, probabilmente avresti avuto lo stesso shock anche in Italia, un po' meno secondo me, però pensi che sarebbe stato sì in Italia già mi sento più a mio agio, più a casa mia, ma sì. Perché noi siamo poi aperti, sì, abbiamo il sole, certo, il mare, certo. Noi siamo un popolo un pochino più caloroso. Ma quando ti chiedono di che nazionalità sei, tu cosa rispondi? Io dico che sono italiano. Uh-huh. Quindi tu, ecco, malgrado abbia fatto tutta la tua vita in Ruanda, però, insomma, hai ben, diciamo, evidente, non evidente, ma insomma, ti viene sempre spontaneamente di dire che sei italiano, cioè non ti viene di dire italiano africano, che ne so, italiano ruandese. Io l'educazione che ho avuto a casa era italiana. Uh-huh. I valori a casa mia, familiari, sono molto più italiani, però ovviamente mi sento... Sai cucinare la pasta, insomma. Sì, cucino molto, quello sì. Però mi sento anche molto africano. La gran parte dei miei amici qua in Belgio sono africani. Il mio modo di pensare fino ai miei 18 anni era molto africano. Poi me ne sono reso conto quando sono arrivato qua, ovviamente. Cosa significa... modo di pensare non africano? Non so come ci si comporta quando tu, negli incontri, nel divertimento, nelle serate, nel modo di cui concepisci l'amicizia, i legami anche familiari tra le persone, è diverso. Uh-huh. In Africa la gente vive in un modo molto diverso. Ti faccio una domanda un po' stupida forse, ma per esempio il tuo modo di abbracciare un amico o un'amica è diverso secondo te da come abbraccia un belga? Sì, certo, ovviamente. Se trovo un amico un amico mio che non ho più visto da tanto tempo in Africa, subito ci si abbraccia, ci si parla, non è maleducato se non lo si fa, no? Uh-huh, subito lo puoi anche stai un più tempo assieme, non, uh-huh, uh-huh. Non è un obbligo, però è educato ed è così che si funziona. Devi dare tempo alla persona, se uh-huh, tu non lo vedi uh-huh. dopo un paio di tempo, lo devi. Uh-huh. Devi come dire, dare un po' di tempo e passare tempo con lui. Gli rendi onore all'amicizia, sì, insomma. Sì. Tu, Loredana, invece hai detto che lavori, adesso appunto sei temporaneamente fuori del Ruanda. Che lavoro fai? In Ruanda ho insegnato matematica alla scuola belga per 8 anni. In consolato, il console Pier Antonio Costa, per quasi 6 anni, ed è lì che ho visto, per rispondere a una domanda di prima, che quando le giovani coppie arrivavano, soprattutto le donne, cherche la femme, le donne, io sapevo già se andavano o se non andavano, perché l'Africa è così, o la Kigali è così, o tu l'aimes, o tu ne l'aimes pas, o ti piace o non ti piacerà mai. Quanti matrimoni ho visto, è brutto dire così, ma è la realtà, finire perché l'Africa, lo ripeto, è un paese egoista. Quanti. E quindi lavoravo in consolato e poi lavoravo con mio marito, mi occupavo delle vendite, abbiamo una farmacia, facciamo produzione locale, insomma in grosso, un piccolo affare di famiglia. Non abbiamo parlato di cosa si mangia in questi paesi, per esempio in Nigeria, Pinuccia. In Nigeria era molto difficile, innanzitutto le importazioni, Nigeria è un paese anglofono, dominazione inglese per tantissimi anni, quindi la maggior parte dei prodotti o erano prodotti locali, si limitava poi essenzialmente a patate, perché purtroppo in un paese desertico non legumi non è che ce ne siano più di tanti, carne tantissima. Carne che vuol dire selvaggina? No, di allevamento? Mucche, vitelli. E poi niente, quando arrivavano, quando sbarcavano, come dicevo io, questi container con il burro, la pasta o il riso, allora lì si faceva incetta di tutto quello che ci poteva essere, perché capitava molto molto di rado, e di conseguenza noi italiani, per la pasta è il piatto nazionale, non possiamo privarci di pasta. Io mi limitavo a tagliatelle, che quando sono arrivata in Italia, il mio primo congedo, dopo un anno e mezzo, mia suocera poverina, pensando di farmi molto piacere, aveva preparato un bel piatto di tagliatelle. Sono venuti i sudori freddi. Le tagliatelle le facevi tu, le trovavi? Le dovevo fare in casa, naturalmente. Tu. La pasta fresca era quella che era, sì, era sì, l'alimento sì. di base, se vuoi, sì, perché sì, non sì. trovando altra pasta certo. che questa. Questo, certo. naturalmente. Però sì, trovavi la farina di frumento? Si trovava la farina, sì, assolutamente. Insomma, la farina era quello che era. Quelli che hanno vissuto in Africa sanno che bisognava setacciare, e setacciare molto, molto bene. Già era, c'era già la carne volendo con la farina. Ah, ho capito. Se rendo l'idea. Però bon, sì, poi, sì. un po' perché si è giovani, un po' perché si prendono le cose in un altro modo, un po' perché non c'è alternativa. Non c'è alternativa, e poi soprattutto perché, come diceva Fabrizio, i valori sono diversi e là conta molto l'amicizia, conta molto il rapporto umano, e quindi non ci si limita a quello che si mangia, c'è tutto quello intorno che è molto più importante. Mm-hmm. Dunque, la Nigeria è stata abbastanza dura. Poi però Irlanda avevamo quasi tutto, e poi si importava già moltissimo, gli anni erano cambiati anche, certo, immagino negli che... anni 80 tutto arrivava dal Belgio, e quindi bon, se uno voleva aveva le primizie, non era un problema. Poi naturalmente sul posto c'era molta verdura e le cose erano cambiate moltissimo per quanto mi riguarda, dunque mi ero adattata perfettamente. Irlanda è tutto un altro discorso. Ma Loredana, tu sai fare un piatto tipico ruandese? Guarda, la cucina ruandese è povera, mm-hmm. è molto povera, e diciamo, a me non piace molto. Comunque, invece, i miei figlioli diventavano pazzi. Allora, brochette. Molto ricca come. Ci sono tante patate dolci, c'è la manioca, uh-huh. che quella mangi per tre giorni, ce l'hai sullo stomaco. No, ma cioè, è molto curativa. È vero. Poi ci sono le brochette, Fabrizio. Molto olio ed è molto, sì, è molto, molto nutriente. Molti fagioli sì, patate. Sì, sì. Infatti in Ruanda quando certi ruandesi diventano un po' ricchi, diciamo, si vede subito da come prendono peso, subito. E per loro è un modo per far vedere che sono, sì, che sono un po' ricchi. Sì, è vero, questo è vero. Poi c'è il pesce, un giorno c'è il tilapia, il giorno dopo c'è il tilapia, poi c'è il tilapia, poi c'è ancora il tilapia. Ma è buonissimo. Qualche volta arriva il capitano. Qualche volta arriva il capitano, ma è buonissimo, E però. Poi gli spiedini a tutte le pollo, ore. Pollo, sì, pollo, carne, oh, tenerissima. Capretto. Un pollo ruspante. Ma sì, di quelli proprio ruspanti, sì, che quelli ci rimaneva la dentiera il sopra. Bel cucumacala molto gustoso, ma sì, ruspante. Sì, molto poi frutta, peperoncino, dai, il peperoncino è fortissimo, frutta. Là, molto buono. Se peperoncino, sì, sì, la frutta ovviamente tutte le mattine mangiavo, sì. Per colazione frutta? Per colazione, vabbè, esageravo un po', però c'era il cuoco a casa che faceva, mi faceva un frullato di frutta, metteva mango, papaya, fragole, banane, goiaba, lampone, metteva proprio di tutto. Buonissimo, queste sono cose buonissime, mancano. E lo bevevo, mi prendeva anche 15 minuti perché era ben denso, però era così buono, poi tutta la giornata energia, certo, e vitamine. Per certo, tutto. Mamma mia che vita però. È molto, niente male, niente male. Molto sana, sì. Ecco, molto sana, è vero quello, è quello vero. Che dici. E poi lo stress soprattutto. Spostarsi non costa niente, il tempo è sempre uguale, se piove, piove per 2 ore al massimo, dunque vuoi vederti con un amico, tu non consideri il tempo. Tutto, ci vediamo fra poco, ci vediamo dopo, ok, ma dopo fra un'ora, due, anche fra 4 ore, la stessa cosa, cioè non cambia niente assolutamente, poi torni a casa quando vuoi. È un concetto interessante. È per quello che sei sempre in ritardo qui in Europa. Non lo so. In Europa. Ma qui viviamo con l'orologio, sì, è una bella differenza. E io, se posso permettermi, a proposito di tempo, sono stata invitata ad un matrimonio che era officiato da un congolese. Ed è lì che ho sentito la più bella frase di tutta la mia vita. Questo parroco, officiando la messa agli sposi, ha parlato della sua Africa e dice: noi in Africa, no, voi in Europa avete l'orologio, noi in Africa abbiamo il tempo. E trovo che sia una cosa meravigliosa. Giusto. Perché noi in Europa non prendiamo il tempo per curare le amicizie, per fare le cose, perché, come dice Fabrizio, lo stress prevalica. Invece in Africa si vive. No, comunque ci sono le scadenze, che ne so, se invitiamo qualcuno una sera alle 11, diciamo, ma forse è ora di andare perché domani dobbiamo lavorare. Non necessariamente uno alle 11 ha finito di dire quello che voleva dire. No. È vero, la padrona di casa comincia a alzarsi, ok, capito. Quando sparecchia la padrona di casa. Ma anche in Africa si lavorava e avevamo le scadenze, però in Africa se invece di finire la serata alle 11 si finiva a mezzanotte o si finiva all'una, era proprio la stessa cosa, non c'era questo meccanismo come abbiamo noi in Europa, forse è quello anche che manca tantissimo. I legami che hai, di amicizia che hai, diciamo, che hai avuto non li in Africa, non li perdi, li ritrovi sempre anche io qui. Infatti qua la maggior parte delle mie amicizie sono persone con le quali ho vissuto un sacco di anni in Africa, che anche loro poi sono rientrati. Anna Maria, ci siamo ritrovati, io ero con i genitori di Anna Maria in Africa, per esempio, e con tante altre persone, chi abita a Liegi, chi abita a Uì, chi abita da tantissime altre parti, e ci si vede regolarmente, ci si sente regolarmente, perché proprio la mentalità è diversa, si prende proprio il tempo di passare il proprio tempo con le persone. Non abbiamo bisogno, quando ci si vede, è come se uno si fosse lasciato il giorno prima, anche se sono passati 5-6 anni, e non abbiamo bisogno di dire ci ritroviamo a casa tua a tale data, mi raccomando. No, uno da un africano poi da un europeo che ha vissuto in Africa puoi arrivare, non importa in che momento, sei sempre il benvenuto. È quello che trovo che sia la differenza, e che sia molto molto importante. Ci si africanizza. Sì, probabilmente. Sì. Ma certi valori assomigliano un po' a quelli italiani, secondo me. Cioè, la differenza più grande qua in Belgio, in Italia, già il tempo, dicono spesso che gli italiani sono in ritardo anche loro. Si sente anche che c'è questo un po'. Si approfitta del tempo. Qua in Belgio, quando sono arrivato, io non capivo, per esempio, il treno che arrivava a mezzogiorno e 36, o all'una e 48, no, perché il treno a 48, io c'ho un appuntamento a 51, perché non c'è. Non capisco perché non potevo andare, non so, a un quarto al massimo, o alla mezza. Cioè, I minuti non contavano. Infatti, mamma mia. È vero. Va bene. E noi dobbiamo parlare di tempo, ahimè, perché siamo arrivati così, veramente senza accorgercene proprio questa sera. Alla fine della trasmissione di oggi, dedicata, diciamo, alle esperienze vissute in Africa, in particolare in Ruanda. Io ringrazio i nostri partecipanti, grazie Fabrizio di essere stato con noi. Grazie a voi. Se resti in Belgio, magari verrai a trovarci anche qualche altra volta, ci parlerai, che ne so, ci parlerai un po' meglio di quello che facevi in Africa, del tuo giardino africano. Va bene, con piacere. Grazie a Pinuccia. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie veramente della tua esperienza così variegata africana. E a Loredana, grazie anche a te. Grazie a voi dell'occasione di parlare della mia Africa. Certo. Anch'io. Allora, Loredana, la prossima volta che torni in radio sarà la seconda. Vedi, perché la prima ormai l'hai fatta. È vero, è andata. Il battesimo è stato fatto. Grazie a voi. Grazie a te, Anna Maria. Grazie a voi, grazie a tutti. E voi naturalmente rimanete sintonizzati con Radio Alma, ma ricordate che I colori dell'anima torneranno lunedì prossimo.